La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, la rosa purpurea che torna come ogni sabato a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui su Radio 24. Tutto il cinema che c'è questa settimana di novità in sala è un po' pochino, perché è un solo film, nella follia ogni tanto della distribuzione in Italia. Passiamo da settimane con 9, 10, 12, 13 film a settimane con uno. È vero che è il primo weekend sano, pieno, intero di luglio, ma insomma forse si poteva programmare meglio. Detto questo, il film che c'è è un film importante, atteso, uno dei film che dovrebbero risollevare le sorti dell'estate, insomma, come si sente dire da tanto tempo, e vedremo se lo farà. Stiamo parlando di Spider-Man Homecoming, di questo parleremo fra poco con Boris Sollazzo, ma ovviamente la trasmissione verte su tanti contenuti, per esempio su uno speciale, una riproposizione, non lo chiamo neanche speciale. All'inizio della settimana se n'è andato Paolo Villaggio, ormai lo sapete tutti, è stato celebrato. Noi arriviamo il sabato e non potevamo fare altro che farvi risentire un'intervista con Paolo Villaggio che avevamo fatto per un programma qui su Radio 24, era una sorta di spin-off estivo della Rosa Purpurea che si chiamava La vita in un film nel 2009, e Paolo Villaggio aveva trattato tanti temi che sono ancora di totale attualità. Risentendolo è stato veramente pazzesco, e fra poco ve la faremo sentire, celebreremo così lui e i personaggi straordinari che ha creato. E poi parleremo anche del Festival di Ischia, che si è concluso anche lui nello scorso weekend, da cui abbiamo portato a casa anche qualche intervista importante. Vi faremo ascoltare quella con Edoardo De Angelis, premiato a Ischia, ma che ci racconta anche un po', ci fa capire quello che sta per arrivare nelle sale dopo il successo di Indivisibili. Poi, come sempre, il nostro DVD Game, insomma, giochiamo insieme, per cui non c'è sicuramente da annoiarsi, anzi, ma cominciamo con l'entrare nel clima di Spider-Man Homecoming. Posso tenere il costume? Certo, per me è piccolo. Solo non fare nulla che io farei. E non fare nulla che io non farei. C'è una piccola zona grigia nel mezzo, è lì che tu operi. Stark mi tratta come un ragazzino. Ma sei un ragazzino. Posso dimostrare quanto valgo. Non ci provare. O ucciderò te e tutti quelli che ami. E allora, avete sentito già un primo dialogo. Tutto il film, in fondo, si impernia su questo rapporto, che è un po' un rapporto padre-figlio, pupillo-mentore, adulto-adolescente, mito-ragazzino. Beh, scegliete voi, però è il rapporto fra un giovane Spider-Man, adolescente, non ancora supereroe, ma che vorrebbe diventarlo, ma già conscio dei suoi superpoteri, e Stark, ovvero Iron Man, che con le vesti appunto dell'imprenditore di grande successo e senza alcuno scrupolo, cerca di posizionare, diciamo così, questo virgulto, questo talento del supereroismo prima di farlo diventare quello che diventerà. È un film che raccoglie questa esperienza dopo quello che è successo nel finale, lo ricorderete, di Captain America Civil War, quando appunto Tony Stark e Peter Parker si erano incrociati su quel set in mezzo agli aerei durante quella battaglia finale. Allora, Boris Sollazzo in collegamento con noi. Boris, intanto ciao, ben ritrovato qua alla Rosa. Unico film di questa settimana, film però molto ingombrante e anche molto rischioso a mio modo di vedere, perché collocare, lo faremo più tardi anche con Fabio Fagnani, che è un collega esperto di cinecomics, collocare però il personaggio dell'Uomo Ragno dentro una filmografia già molto ricca di Uomo Ragno non era una cosa semplicissima. Non era semplicissima, ma a mio parere è estremamente riuscita per l'umiltà e l'abilità di John Watts, che non invade la storia dell'Uomo Ragno ma non ne rimane nemmeno spettatore, e funziona tantissimo Tom Holland, che forse è l'Uomo Ragno migliore, almeno per quanto riguarda questa fase, tra virgolette, dell'età dell'Uomo Ragno, cioè l'adolescenza. Riesce davvero a incarnare il teenager, il super teenager che c'è dietro il costume, riesce a portare tutto su un piano di commedia adolescenziale, di college movie, di romanzo di formazione, perché poi è un ragazzo che diventa uomo e alla fine comunque il passaggio da uomo normale a supereroe non è altro che una metafora di quel passaggio di maturazione. È un film riuscito, perché non bisogna mai dimenticarsi che la goliardia, il tono da commedia e anche una capacità di sdrammatizzare se stessi è il centro di tutta la produzione dell'Uomo Ragno, e questo è fondamentale per renderlo credibile. Qua si gioca addirittura, ci sono degli inside joke con l'Uomo Ragno, Tom Holland, che vuole diventare assolutamente un supereroe in contrasto con quello che abbiamo visto fino adesso, e Robert Downey Jr. che gli ricorda una battuta che di solito è sempre solo stata dell'Uomo Ragno, cioè quella del supereroe di quartiere. E anche in questo sono stato molto bravo John Watts, perché non ha abusato degli altri personaggi che sicuramente avevano al cinema magari più carisma, come Iron Man, ma anzi abbiamo visto molto molto di più Tony Stark, che qui fa quasi da Pigmalione, un po' involontario, quasi un padre che non vuole sentirsi troppo vecchio. Si gioca bene con l'immaginario, si gioca bene con la scrittura, le battute sono riuscite, si gioca bene anche con le immagini, è molto interessante tutta la prima parte in cui è quasi un videoblogger l'Uomo Ragno, e rivediamo una parte dell'ultimo Capitan America ripresa da una macchina a mano, da una telecamera di Peter Parker stesso. Devo dire, sorprendente, perché nella sua semplicità ripercorre in un reboot qualcosa che abbiamo già visto, lo fa bene, lo fa divertendo, lo fa con una maturità stilistica che negli ultimi Marvel movie non trovavamo, perché erano ossessionati dalla narrazione della saga intera, dell'intero Marvel Universe, e si erano dimenticati i supereroi. Qui tornano ed è un film solido, visto che siamo al liceo gli diamo anche un voto, veramente un film da 7. Unico difetto, forse troppo lungo, 20 minuti in meno non avrebbero tolto nulla, 2 euro e un quarto sono tanti, ma ormai è questo il cliché, diciamo, temporale dei cinecomics, quindi va bene così. Quindi per diventare un Avenger bisogna fare tipo delle prove o un colloquio? Fammi un favore, puoi essere solo un amichevole Spider-Man di quartiere? Tu sei lo Spider-Man di YouTube. Puoi radunare un esercito di ragni? No, Ned, no. E conosci anche lui? Ho rubato il suo scudo. Posso provare il costume? Da paura. E allora avete sentito anche la battuta a cui faceva riferimento Boris Rino. Adesso sentiamo la viabilità, fra poco torniamo, parliamo ancora un po' di questo Spider-Man, ci sono ancora alcuni aspetti da sentire, da approfondire, fra poco dopo la viabilità. La rosa purpurea. E se fosse morto qualcuno? Volevo solo essere come te. Tu devi essere migliore. Ridammi il costume. Sono niente senza il costume. Se sei niente senza il costume, non dovresti averlo. Ho rovinato tutto. Non puoi caricarti il peso del mondo sulle spalle. La mia famiglia è importante e la proteggerò ad ogni costo. E allora, siamo tornati alla Rosa Purpura, siamo tornati con un'altra clip di Spider-Man Homecoming. Boris, hai già detto del cast, io voglio sottolineare le prove di un cattivo Michael Keaton, notevolissimo, devo dire, l'abbiamo anche sentito in questa clip, e di una zia, la mitica zia May di Spider-Man, di Peter Parker, Marisa Tomei, che fa parte del mio harem personale di attrici, cioè quelle di cui sono ufficialmente innamorato, e quindi Marisa Tomei, che trovo sempre assolutamente seducente e straordinariamente brava anche in questo ruolo. Però la domanda che voglio farti è un'altra, a parte se apprezzi il mio amore per Marisa Tomei, è la partenza di Spider-Man, primo giorno 630.000 euro, 90.000 presenze, era un giovedì. È vero, estate, fa molto caldo. Ti sembra un incasso incoraggiante per quello che deve rappresentare questo Spider-Man per l'estate 2017? Sì e no. Allora, intanto ci tengo a dire che assolutamente approvo il tuo amore per Marisa Tomei, con un filo di gelosia. Io la ricordo ancora in Onore al padre e la madre, dove ha un ruolo, insomma, secondario ma straordinario in tutti i sensi. E perché in The Wrestler vogliamo parlarne? Assolutamente, insomma, e qua secondo me il merito grande è che per fare zia May si lascia addosso i segni del tempo e si dimostra ancora più seducente, insomma, in queste vesti di normalità, e questo è proprio della grande attrice oltre che della bellissima donna. E sull'incasso devo dire che ci sono due considerazioni da fare. Da una parte, non è sicuramente l'incasso straordinario che ci aspettavamo, probabilmente paga anche un weekend estremamente caldo e una scarsa abitudine da parte nostra ad andare al cinema di questi tempi. A mio parere è anche un film che rispetto ai cinecomics normali può avere davvero una vita molto lunga, un po' perché se si vanno a vedere le uscite c'è un'autostrada davanti, davvero nessuno dei grandi fino a fine agosto prova neanche a immettersi sulla stessa strada, mi lasciano la strada vuota, e un po' perché è un film che secondo me si farà apprezzare con il passaparola anche per i contenuti politici, cioè anche quelli che i cinecomics non li vanno a vedere secondo me potrebbero essere attratti da un Michael Keaton che è un po' Birdman per quanto riguarda la psicologia un po' deviata di chi diventa sostanzialmente un supereroe suo malgrado, e un po' però è anche un eroe del popolo, perché nel momento in cui cerca di portare l'uomo ragno, anzi Peter Parker, dalla sua parte, sostanzialmente accusa Tony Stark di essere quello che è, una multinazionale che affama i poveri, i derelitti come lui, e quindi a mio parere è preoccupante da una parte, ma probabilmente quello che non è riuscito a ottenere con lo sprint lo recupererà con varie tappe successive, però vedremo, insomma, sicuramente non sarà un incasso record da come è partito, e questo un po' stupisce perché è uno dei migliori cinecomics degli ultimi anni. E beh, staremo a vedere. Comunque io voglio aggiungere che la nostra Valeria Bernardi, che ci aiuta in regia, è innamorata di Tony Stark, quindi abbiamo aperto un clan proprio nel quale ognuno può essere innamorato di chi vuole, tanto chi ti viene a cercare. Cioè, posso dirlo, certo. Anche l'ultima Gwyneth Paltrow che compare proprio alla fine, male dici, no, via, pensavo insomma. Mi stessi per dire che anche tu eri innamorato di Tony Stark, il che va benissimo perché siamo una trasmissione totalmente aperta. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora salutiamo Boris Sollazzo, ma torniamo e restiamo su Spider-Man, perché è già al telefono con noi Fabio Fagnani, che è un collega e soprattutto un grande appassionato ed esperto di cinecomics, che io ho voluto coinvolgere in questa trasmissione per sentirla un po' dalla parte, insomma, di chi il cinecomic e il personaggio di Spider-Man lo vive un po' come, dico come un fan, ma come un fan colto, come uno che cerca di inquadrare dentro un percorso i personaggi. Allora si è detto: Spider-Man è un personaggio molto visto al cinema negli ultimi anni, sequel, prequel, reboot. Ora, come si colloca, dove si colloca nella passione Spider-Man, nella passione di ragno questo film? Fabio, benvenuto alla Rosa Purpure. Grazie mille Franco, ciao e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ma intanto questo Spider-Man Coming è diverso dagli altri, dopo la trilogia di Raimi che ormai è passato, sono passati quasi 15 anni, che era una regia autoriale, la ricerca della bellezza, un po' come la trilogia di Spider-Man di Batman di Nolan, quindi una ricerca registica più del contenuto del personaggio, questo film qui cerca di portare Spider-Man vicino al mondo dei fumetti, ed è per questo che i cultori della nona arte, secondo me, apprezzeranno molto questo Spider-Man. Gli ultimi due, quelli di Amazing Spider-Man e quelli con Andrew Garfield, hanno fatto un po' cilecca proprio da quel punto di vista, dal punto di vista del personaggio. È per quello che la Sony si è vista costretta a prestare ancora i diritti alla Marvel Studios, perché la Marvel li aveva venduti tantissimo tempo fa a Sony, che ci ha guadagnato un po' con Raimi, poi è andata giù in maniera colossale con il remake con Andrew Garfield e Mark Webb in regia, e adesso si è vista costretta a portare il personaggio in Capitan American 3 The Civil War, e poi adesso con un singolo film sull'Uomo Ragno, che è un personaggio molto adolescente, no? Quindi sembra l'inizio di uno di quei film domenicali di domenica pomeriggio, quando tu puoi fare il pisolino sul divano e ti godi il film dei teenager. E poi però diventa un'altra cosa, abbiamo anche sentito, sicuramente, quindi l'elemento della freschezza, mi sembra che anche dalle tue parole prevalga, insomma è una secchiata d'acqua fresca, e questa cosa piace anche al pubblico dei conoscitori più incalliti. Grazie a Fabio Fagnani, che potete trovare su vari siti, l'inchiesta per esempio, tanto per dirne uno, se volete seguire tutto quello che pensa dei cinecomics e del cinema in generale. Grazie Fabio, ci risentiamo. Un saluto, grazie. E allora abbiamo chiuso così la nostra ampia parentesi dedicata all'unico film della settimana, che è Spider-Man Homecoming, ma meritava questo tipo di approfondimento. Giochiamo insieme, prima di aprire invece lo spazio dedicato all'omaggio a Paolo Villaggio, giochiamo insieme con il nostro film misterioso di oggi. Avevo un accordo con loro, passaggio sicuro. Non so se è ancora valido. Tornate di sotto, tenete aperto il portello. E allora avete già indovinato di che film si tratta, quale grande saga appartenga. Se l'avete fatto, scriveteci alla Rosa Purpurea a @radio24.it con il titolo del film e il vostro indirizzo, perché c'è un premio spettacolare oggi in palio per il nostro DVD Game, di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Ragione Fantozzi, ma che fa? Si muovi! Era l'ultimo cartellino della sua vita. Fantozzi lo timbrò con noncuranza, come sempre. Abbiamo voluto scegliere uno dei tanti momenti che ci ha regalato Paolo Villaggio nella sua storia, nella sua maschera principale, quella di Fantozzi, perché apriamo qui il nostro omaggio a Paolo Villaggio, un omaggio intervista, perché come raccontavo in apertura di trasmissione, nel 2009 l'avevamo intervistato qui alla Rosa Purpurea, anzi l'avevamo intervistato in un spin-off quotidiano che si chiamava La vita in un film, e ci aveva raccontato il rapporto col mondo del lavoro delle sue maschere, dei suoi personaggi. Pensate quanto ha cambiato la percezione del rapporto fra l'impiegato e comunque il dipendente, insomma, nel mondo del lavoro e il lavoro stesso, a quanto le sue frasi, le sue parole siano diventate patrimonio del nostro lessico, a quanto i suoi modi di dire siano stati replicati alla macchinetta del caffè o davanti a un superiore. Ecco, Paolo Villaggio ha reinventato un ruolo, una maschera e un linguaggio, e quindi mi sembra che questo sia molto per un attore. È stato detto che non avesse ricevuto abbastanza gli onori che meritava in vita. Secondo me non è vero, li ha ricevuti, ha ricevuto una riconoscibilità assoluta, gli è stato riconosciuto che aveva cambiato appunto questo modo di vivere e di raccontare questo rapporto. Quindi direi che veramente Paolo Villaggio in questo può aver raggiunto la sua nuvola di Fantozzi là sopra con grande serenità. Noi però avevamo cominciato proprio quell'incontro telefonico chiedendogli se l'aspettasse quel 27 marzo 75, quando uscì il primo Fantozzi, di diventare un'icona della cultura popolare. E sentiamo cosa ci disse Paolo Villaggio. Beh, no, sinceramente no. Poi invece lentamente ho capito che quello era forse il mio destino, quello di essere l'autore di un personaggio maschera che poi ha rappresentato i problemi dell'italiano medio, di tutti gli italiani. Con l'alternarsi di saggi governi, il popolo italiano ha ormai raggiunto un alto grado di maturità. I lavoratori, operai e impiegati hanno finalmente capito che la produttività è alla base del benessere sociale e l'unica strada per uscire dalla crisi. Oramai le due grandi piaghe dell'assenteismo e del secondo lavoro che tanti danni hanno provocato all'economia italiana possono dirsi finalmente vinte e debellate. Andiamo a lavorare! Via! Il secondo lavoro dove ce l'ha lei? Alle poste. Oh, bene, potrebbe darmi un passaggio, perché io stamattina sono venuto senza lei, macchina. Non era l'anagrafe. Sì, ma io ne ho tre di lavori. La condizione soprattutto della popolazione giovanile è peggiorata, aumentano i timori, le paure. Per vari motivi. Il motivo fondamentale è che la vita umana si è allungata e quindi ci sono molti più vecchi che non mollano la posizione. Molti più vecchi che vanno in pensione più tardi e quindi ci sono meno posti di lavoro. Poi c'è una crisi generale che spaventa molto, ma poi soprattutto mi sembra che la condizione della popolazione giovanile, a parte il precariato e quindi la paura di dover poi smettere di lavorare oppure di non trovare un altro lavoro, sia dovuta al fatto che hanno perso fiducia completamente nei valori della cultura nella quale è vissuta la mia generazione, che era quasi fiera, no, del boom economico e quasi certa che quella scelta di quella cultura fosse la felicità. Adesso invece il timore grave è che, avendo perso fiducia in quella cultura, i giovani hanno perso quasi l'istinto di sopravvivenza. Cioè mi sembra che la condizione fantozziana sia peggiorata, mi sembra che la paura sia di gran lunga aumentata. Così parlò Paolo Villaggio a proposito dei giovani e come di vivono questo rapporto col mondo del lavoro. Noi adesso diamo la linea alla regia, fra poco torniamo e continuiamo a sentire Paolo Villaggio partendo proprio dalle differenze di quel elemento Fantozzi, di quella maschera vissuta 30 anni fa e nel rapporto con il mondo del lavoro di oggi. Fra poco. La rosa purpurea. Ebbene, sì. Ti è rimasto qualche soldo, eh? Sì, Ugo. Allora, va a comprare due fucili. Che ci suicidiamo. Ma no, Ugo, non devi dire così. Sei troppo pessimista. Domani è un altro giorno. Un altro giorno di merda, come tutti quelli della mia vita. Guarda, Ugo, una stella cadente. Esprimi subito un desiderio, su. Beh, a me piacerebbe che in uno dei miliardi e miliardi di galassie che abitano l'universo, magari ci fosse lontano un piccolo mondo veramente, ma veramente felice. E il pessimismo cosmico di Fantozzi, di questo personaggio, ma anche la sua ironia pungente che ha aperto questa terza parte della Rosa Purpurea. Stiamo continuando a riproporvi questa intervista con Paolo Villaggio che ci rilasciò qualche anno fa per parlare del rapporto delle sue maschere col mondo del lavoro, e uno dei temi era proprio quello di quanto fosse cambiato cambiata quella figura, la figura incarnata da Fantozzi, cioè l'impiegato medio, dipendente, di routine di quegli anni 70 rispetto a chi quel lavoro lo fa in questi anni. E la risposta di Paolo Villaggio fu, come dire, abbastanza inquietante e sconcertante al tempo stesso, perché ci disse che le cose non erano migliorate, tutt'altro. Mi sembra che il Fantozzi di allora fosse abbastanza felice, quello di adesso è disperato. Non aveva dei grandi obiettivi, era rassegnato alla sua mediocrità, però era assolutamente tranquillo che da lì, anche se non faceva un cazzo dalla mattina alla sera, non l'avrebbero mai allontanato né cacciato, tal più non faceva carriera, ma a lui che gliene fregava, tanto sapeva che per fare carriera bisognava avere non tanto delle qualità dei numeri, ma avere degli appoggi e delle raccomandazioni. Sabato 18 alle ore 20 e 25, in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile, calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. Gli italiani, essendo di fondo presuntuosi e mancando soprattutto di senso critico, hanno escluso di essere Fantozzi. Mi si fermava a pensare e dice: vede quello lì che lei racconta, è uguale a un mio vicino, al mio vicino di casa, al mio collega di ufficio, a un mio zio scemo. Poi lentamente però hanno accettato l'idea che era terapeutico quel personaggio, perché li aveva sollevati dal dubbio di essere mediocri solo loro, isolati nella loro mediocrità, e hanno capito che era, riguardava più o meno tutti quelli della loro casta sociale medio-bassa, e quindi li ho liberati dal timore. È stata un'azione terapeutica molto violenta, perché li ho liberati dall'idea, dall'incubo di essere dei mediocri. Da quanti anni è alle nostre dipendenze? Da sempre. Sono un impiegato congenito. Come ha cominciato? Come Zerbino, con la scritta Salve tatuata nella schiena. Mi sembra che il servilismo, la sudditanza, cioè l'essere trattato con alterigia, cioè mi sembra che le condizioni siano ancora peggiorate. Peggiorate perché si teme di più il potere. Cioè un tempo, le confesso, che c'era meno timore dell'autorità. Adesso invece mi sembra che la condizione dei potenti sia sempre più aggressiva e la condizione dei piccoli sia sempre più di sudditi sottomessi. Allora, apriamo il nostro solito dibattito. Chi vuol parlare? Scusi? Posso dire una parola io? Ah, la nostra merdaccia! Venga, venga, Fantozzi, si accomodi. Finalmente ha trovato le parole. Chissà quale profondo giudizio estetico avrà maturato in tutti questi anni. Dica, dica. Allora? Per me, la corazzata Potionkin è una cagata pazzesca! Il Partito Comunista era come la Chiesa, cioè mancava di autocritica, di autoironia, e mancava forse di obiettività, perché stabilire che era il più grande film di tutti i tempi è veramente una stronzata, perché non è vero. Quindi quando io ho detto una battuta epocale, la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca, ha scatenato un diluvio di risate, di approvazioni liberatorie. Perché in effetti quello che è mancato sempre è alla Chiesa e alla sinistra è l'autoironia. Mi creda, la cosa che manca di più agli italiani è l'autocritica e l'autoironia. Paolo Villaggio, che abbiamo riproposto in questa intervista del 2009, avete sentito il riferimento a quella che è la sua battuta più famosa, probabilmente una delle tante famose, ma forse la più famosa, che è stata anche oggetto di tanti dibattiti, perché molti hanno detto, secondo me anche giustamente, attenzione, hanno demolito con questa battuta un film che è un capolavoro assoluto della storia del cinema, non per snobismo, perché è un film straordinario con un montaggio spettacolare, stacchi ogni tre secondi, è un film che per l'epoca era davvero impressionante, ma aveva usato una sorta di sinonimo di nome fittizio, Fantozzi, e la corazzata Potionkin, in realtà poi a vedere appunto la corazzata Potionkin di Eisenstein era con la P, ma comunque al di là di questo avete sentito anche quali erano le ragioni assolutamente condivisibili del ragionamento di Paolo Villaggio. Di Paolo Villaggio abbiamo parlato anche a Riccione, si sono svolte questa settimana le giornate professionali del cinema e abbiamo incontrato, è stata premiata tra l'altro come comedian al femminile classic, diciamo così, Anna Mazzamauro. Anna Mazzamauro è stata, come dire, per tanti anni, in tanti film di Fantozzi, l'amante irraggiungibile del ragionier Ugo Fantozzi, e ha ricordato al microfono di Chiara Pizzimenti così la figura di Paolo Villaggio. Per il rispetto del suo ricordo, non ne parliamo, perché altrimenti, io lo so, oggi, stamattina ho litigato con un giornalista che voleva sicuramente vedere in me delle lacrime, delle commozioni, ascoltare con la mia voce tremula ricordando Paolo Villaggio. Credimi, è una stronzata, perché io ho scritto quella piccola cosa, no? Sul post, che a me è sembrata piccola, che gli altri hanno definito grande, ma era molto semplice e soprattutto sentita. Non mi va di parlare, di dire quanto era buono, quanto era bello, quanto era caro. Non è vero. Era il concetto di morte che spaventa tutti e ci ha spaventato anche nel vedere un uomo geniale al quale non dovremmo attribuire la morte, no? L'intelligenza dovrebbe salvare dalla morte. Allora, questa paura, ho pensato che l'unico modo per vendicarsi della morte di Paolo è quello di consegnarlo all'immortalità, sperando di avere vicino a lui un posticino. Pensa quando il prossimo incontro invece intervisterete Paolo Villaggio, che sarò morta io, e direte a Paolo: com'era la signorina Silvani? Un cesso terribile, un cesso immondo. E a proposito, una cosettina divertente tra me e Paolo. Quando siamo andati da Barbara D'Urso, hanno chiesto a Paolo: ma come mai all'inizio ha scelto Anna Mazzamauro? E lui ha risposto: perché avevo bisogno di un cesso. E io ho risposto: un cesso sul quale avresti appoggiato molto volentieri le tue chiappe. Straordinaria Anna Mazzamauro, cioè regina incontrastata di autoironia in questo ricordo che ha raccolto Chiara Pizzimenti a Riccione, e il post che aveva messo su Facebook Anna Mazzamauro suonava così: è morta anche la mia giovinezza, Fantozzi è stato l'unico uomo che mi abbia veramente amato, firmato Anna Silvani. Devo dire, davvero un capolavoro. Allora, Paolo Villaggio, ricordato dalla nostra intervista e da Anna Mazzamauro, adesso invece ritorniamo alla futilità del presente con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Ti garantisco che a 160 giorni da quella parte non c'è altro che sale. Almeno da questa parte potremo riuscire a trovare una specie di redenzione. E allora, anche qui, se avete indovinato di che film si tratta e a che saga appartenga quantomeno, scriveteci alla rosapurpurea@radio24.it, perché c'è da vincere davvero qualcosa di molto prezioso, cinematograficamente non solo. Fra poco io vi dirò qual è l'esito del nostro quiz, però scriveteci con il vostro indirizzo, mi raccomando, perché ci agevola nelle nostre spedizioni. Adesso viabilità, fra poco torniamo insieme, parliamo dell'esito del Festival di Ischia con uno dei vincitori, uno dei premiati, Edoardo De Angelis, e poi tutto il cinema da vedere in casa. La Rosa Purpurea. Ed eccoci qua, la quarta parte della Rosa Purpurea. Fra poco tutto il cinema da vedere a casa. Sveleremo il titolo del nostro film misterioso di oggi, quindi restate fino alla fine perché vi faremo sapere se avevate almeno indovinato. Poi chi sono stati i primi lo sapremo la settimana prossima. Però parliamo dell'Ischia Film Festival che si è concluso sabato scorso nella splendida cornice del Castello Aragonese di Ischia. Una settimana di cinema, di sale gremite, di gente che restava a dispetto di qualsiasi condizione di tempo, di tempeste, di sabbia e vento che ci sono state, ma anche di cieli stellati in quello scenario fantastico, per vedere il cinema di oggi, per vedere il cinema del Festival delle Location, che quindi ci racconta un po' come gli scenari dei film diventino cinema, e un po' anche per vedere il meglio di quello che si è visto nella produzione italiana di quest'anno, con tanti ospiti che sono arrivati. Ischia Film Festival ha premiato Immortality come miglior film del concorso, mentre il premio al miglior documentario è andato a un film croato che si intitola Unwanted Heritage, l'eredità non voluta, insomma involontaria, ma è meglio specificare non voluta, pesante, scomoda, ecco, io direi, dovendo fare un adattamento della traduzione, un bellissimo film quanto ci lascino questi monumenti di un passato scomodo, in quel caso quello dell'eredità di Tito, della Jugoslavia comunista, quando quel passato è finito, un film veramente da trovare. Detto questo, c'è stato anche un premio del pubblico, il premio del pubblico è andato a Indivisibili di Edoardo De Angelis, lo straordinario film della scorsa stagione, che tra l'altro ha anche vinto 5 nastri d'argento, che racconta la storia di queste due gemelle siamesi, cantanti neomelodiche, che quando vogliono dividere il loro corpo per avere ognuna la propria vita, la propria sessualità e la propria intimità, trovano la famiglia ad ostacolarli perché sono un fenomeno che va bene così e quindi devono continuare a stare attaccate, indivisibili appunto. L'autore del film è Edoardo De Angelis, che sta già preparando anche il suo nuovo lavoro e che abbiamo incontrato partendo proprio da questo primo punto fermo. Cosa lascia Indivisibili nella storia e nel lavoro di Edoardo De Angelis? Mi ha dato quella che io considero una grande opportunità, ovvero quella di lavorare sul solco di una ricerca di linguaggio. E questo solco è molto profondo per me, tant'è vero che intendo ancora andare più in profondità rispetto a questo segno che ha lasciato Indivisibili. E è stato un film realizzato con un grande senso di libertà, è stato un film quasi emanato piuttosto che scritto e girato, e quindi conservo dentro di me il ricordo di questa esperienza molto forte in termini sia umani che professionali, che mi ha fatto vedere finalmente in una forma più precisa quello che è il cinema che mi piacerebbe fare. Ecco, dicevi un solco sul quale vorrei insistere. Ti riferisci all'aspetto più estetico, di linguaggio, eccetera, o all'aspetto più tematico? Tu hai messo un pugnale dentro anche un po' dentro il concetto di famiglia, dentro lì, no? Perché c'è sicuramente anche questo spaesamento dello spettatore rispetto a questa botta scioccante quasi, no? Di questa famiglia e del rapporto che ha con queste figlie. Cioè, vuoi continuare a raccontare quello o ti riferivi invece a come l'hai fatto, con quali colori, con quali inquadrature, con quale scelte di linguaggio? Sicuramente la famiglia per me è un nucleo di indagine inesauribile. Al tempo stesso la ricerca estetica che è stata fatta è qualcosa che mi ha soddisfatto, ma che voglio che cresca, per parlare ancora di tutto quello che succede dentro e fuori la famiglia, senza prescindere dalla famiglia. I temi che voglio affrontare sono i temi che riguardano l'uomo in ogni luogo e in ogni tempo. Con Indivisibili ho cercato di parlare di separazione. Ora è tempo per me di affrontare il tema della riconciliazione. La riconciliazione anche in questo caso, soprattutto con una parte di se stessi. Piano piano ci avviciniamo a un identikit. Lo farai con la forma filmica del film, del lungometraggio di finzione per le sale, o ti sta attraendo qualche altra forma di comunicazione audiovisiva? Penso per esempio alle serie TV. Sono attratto alla forma della lunga serialità perché dà la possibilità di approfondire i personaggi e dà più tempo alla narrazione. Ma ho ancora una voglia enorme di fare lungometraggi per le sale. Quindi per quest'anno mi dedicherò ancora a questo. Edoardo De Angelis, premiato all'Ischia Film Festival 2017. Torniamo allora indietro di una settimana. Sentiamo con quale film avevamo giocato. Era una scuola per ragazzi con esigenze speciali. Sì, bella definizione. C'era anche lui. Sono stato espulso diverse volte. E si trattava di Logan the Wolverine, l'ultimo capitolo in ordine cronologico delle vicende dell'uomo con gli artigli di forbice e di coltello. Vincitori Eleonora Adriani di Melzo, provincia di Milano, e Massimo Basirico di Voghera. Saranno loro a ricevere questa edizione Blu-ray di questo film con Hugh Jackman, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, siamo nel 2029, i mutanti sono quasi tutti estinti e Logan, Wolverine, invecchiato per via dell'indebolimento del suo potere, trascorre le giornate facendo l'autista in Texas e prendendosi cura del vecchio Charles Xavier. Improvvisamente viene contattato da una persona che gli chiede di accompagnare lei e Laura, una ragazzina che ha i poteri straordinari, in un luogo misterioso chiamato Eden. È l'ultimo film su Wolverine ed è veramente un bellissimo western post tutto, cupo e crepuscolare, che io credo sia veramente uno dei migliori film americani dell'anno, con reminiscenze di tantissimo cinema classico. Il Blu-ray è tecnicamente superbo e accompagna nel reparto extra il commento audio del regista James Mangold, un regista che lavora nell'industria ma ha sicuramente delle marche autoriali forti, accompagna appunto a questo commento e alle scene eliminate un solo contributo che è denominato Dare vita a Logan, che però non è assolutamente un contenuto banale perché è un documentario di 76 minuti che per i fan della saga è veramente molto prezioso. E questo quindi, Logan, il nostro game della scorsa settimana. Segnalazioni dai palinsesti televisivi. Domenica 9 luglio, Il segreto dei suoi occhi di Campanella del 2009 sulla 7 di a mezzanotte 40. Un uomo è ossessionato dal caso di una donna violentata e uccisa negli anni 70, lasciando un marito devastato e un assassino in libertà. 25 anni dopo l'uomo decide di colmare questo vuoto ritornando sul caso. Il suo percorso riporterà alla luce un amore corrisposto mai consumato, sensi di colpa pesanti come macigni, esilerà lentamente non solo sentimenti ma anche fatti rimossi. Juan José Campanella ha il talento e il coraggio di chi affronta il cinema nella sua essenza, immergendosi nei suoi generi che vanno dal noir al melò, senza timore di sovvertirli e di giocare anche con il cinema di questo autore argentino che è poco conosciuto da noi ma è un maestro in patria, con i suoi film sentimentali che si ammantano di impegno. Per molti premi il film ha vinto anche l'Oscar come miglior film straniero. Ecco, invece giovedì 13 luglio abbiamo parlato prima, parlando delle giornate di direzione del nuovo film di Alexander Payne, Downsizing, con Matt Damon. Ebbene, c'è la possibilità di rivedere invece Nebraska, film del 2013, su Rai Movie, giovedì 13 luglio alle 3:05 del mattino. Woody ha 80 anni e una demenza senile incipiente e crede di avere vinto $1 milione ed è deciso ad andare fino in Nebraska per recuperare il premio. Alexander Payne gira quello che è un ulteriore road movie della sua filmografia, in cui come sempre non conta la meta, che sappiamo da subito non esistere, ma il viaggio, lo sbandare a destra manca di questo vecchio scontroso e amareggiato, convinto di aver vinto una grossa somma, e la sua odissea provinciale, fotografata in un magnifico bianco e nero, con protagonista un grandissimo Bruce Dern, che qualcuno ha definito la più grande star mai diventata una star. È un bel film questo, davvero, che sotto sotto coglie con attenzione ciò che resta di una provincia che una volta era saldamente operaia e al tempo di cui è stato girato era dimenticata totalmente dalla crisi finanziaria. E allora, l'appuntamento giovedì 13 luglio su Rai Movie alle 3:05 del mattino. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, le note della sigla ce lo ricordano, prima però ricordiamo noi ai nostri ascoltatori che abbiamo giocato questa settimana con la saga di Mad Max e che in palio c'è uno straordinario cofanetto di ben 6 dischi e che quindi, come dire, i nostri vincitori saranno ben felici di riceverlo. Ne annunceremo i nomi la prossima settimana alle 18 qui su Radio 24, La Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è.